Riprende. Non mi porterà. Vivevo in un camerone di 2 metri quadrati. Vivevo nello scantinato. 2 metri di sudore. Il quadro era caduto, ma io ero in calore. E sopra di me una coppia di gay. Io li sopportavo. Stai. Pure i loro orgasmi. Giammai schifo. Che visione uscì. Poi c'erano gli afroamericani. Mi alzavano l'alza bandiera. Gli afroamericani mi sono la vergogna. E arrivano i neri. Detti anche afroamericani. Accanto ai loro peni si gira l'avventura di Woody Allen, nato tra gli ebrei a Brooklyn. Sì, sembra la versione porno degli Aristogatti, lo sai? È nato tra i gay, è vissuto tra i pigmei, e dopo le